Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ai nostri cari ascoltatori, un affettuosissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, stasera abbiamo un ospite, beh, poi diremo chi è, ma intanto tu leggi. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo è internet bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione con il podcast. Un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. E un saluto particolare al nostro ospite che penso che tantissimi di voi conoscerà perché è un bravissimo poeta trevigiano, è stato ospite diverse volte della nostra trasmissione ed ecco a voi il signor Emilio Gallina. Buonasera Emilio. Buonasera Emilio. A tutti Maria Santa. Sento. Siamo doppiamente contenti perché qui abbiamo un amico e un poeta e quindi siamo effettivamente contenti. Che è stato considerato. Che abbiamo messo anche la marcia della Ida trionfale. No, non ancora. Però dopo, un cordiale saluto alla signora Ketty sicuramente. Ah, beh certo, quello non manca mai. Ciao Ketty. Ecco. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E anche i tuoi nipotini se sono in ascolto. Oh, Può essere, anche loro. Comunque Emilio è considerato un poeta trevigiano doc. Esattamente. E allora andiamo a leggere, diciamo, forse per certi versi pleonastico, ma ricordiamo ogni tanto così il curriculum del nostro amico Emilio, che è nato a Treviso e risiede dopo il bombardamento del 7 aprile del 44 e lo sfollamento a Postioma nella frazione di Santa Bona in via Everest 7, dove tra i vari incarichi ha ricoperto per quasi una trentina d'anni la presidenza della locale polisportiva. Fin dai tempi dell'importante esperienza di lavoro, dai primi anni 50 presso la libreria di Piero Dall'Asta di Treviso, dove ha conosciuto importantissimi personaggi della cultura trevigiana, si è interessato al dialetto locale che parla da sempre, agli usi, ai costumi e alle tradizioni della città e dell'intera Marca. Promotore editoriale scolastico dal 61 al 98, ha cominciato il suo percorso poetico in lingua e in vernacolo verso la metà degli anni 70, entrando a far parte del circolo dei poeti dialettali trevisiani, ammessi a poesia. Fa parte del consiglio della Società Iconografica Trevigiana e collabora con altre associazioni culturali cittadine. Nel febbraio del 95 è stato ospite dell'evento editoriale Il Libro Invisibile presso la Fondazione Villa Benzi Zecchini di Cairano San Marco, Treviso. Evento determinante per le sue future pubblicazioni poetiche in lingua e in vernacolo. Nel 98 ha pubblicato Gala Verna, la sua prima silloge in lingua, vincitrice del premio internazionale di poesia Agenda dei Poeti, Milano, del 99, presentato presso la Casa dei Carraresi nel dicembre dell'88. Nel giugno del 2000 esce la raccolta poetica in vernacolo urbano di Treviso, Campane Pardò, ristampata nel 2006, silloge dedicata a momenti della vita di coppia. Nel 2002 fa seguito per i tipi di Piazza Editore, a Metera, a Mesente e nel 2004 Scondicuco, Nascondino. Nel 2008 per le edizioni del Leone ha pubblicato la silloge poetica in lingua Questo resto di giorno, e lo stesso anno Nonni, una mini raccolta dedicata ai nipoti. Nel 2010 esce Me pareva appena ieri, Piazza Editore, poesie in vernacolo trevigiano, silloge che continua l'ideale percorso poetico dedicato alla terra trevigiana, alla sua gente e alla sua armoniosa parlata. Collabora con riviste letterarie locali e nazionali, ha recensito e presentato opere di altri poeti, è stato ospite di diverse realtà culturali e in radio locali e venete. Ha realizzato importanti eventi sempre dedicati alla terra trevigiana e alla città, un canto per Treviso col dottor Giuseppe Frigo, carrellata di stupende foto e poesie di poeti trevigiani dedicati alle vie di Treviso. Treviso che non c'è, col professor Fabio Sandrini, scorci di una Treviso futuribile, La montagna e il silenzio e Lungovalle minute, con Franco Vivian, due DVD con stupende immagini delle Dolomiti e della nostra pedemontana trevigiana accompagnate dai suoi versi. Sue poesie in lingua in vernacolo sono presenti in varie antologie e riviste letterarie e sono state premiate e segnalate in numerosi concorsi regionali e nazionali. Benissimo. Oh. Ma allora, se parlavi di me, sì, abbiamo richiamato, diciamo, le molte funzioni del nostro amico. Grazie, molto buoni. Adesso però ci ascoltiamo una canzone, è in lingua inglese, però la musica è stupenda ed è cantata da Julio Iglesias, Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? In the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy Eccoci di nuovo in studio col nostro Emilio e incominceremo col dare un saggio delle sue poesie. Ed Emilio, prima di ogni poesia, darà una piccola spiegazione. A voi la parola. Sì, grazie Gesi. E siccome oggi si parlerà di Santa Bona, frazione qua alle porte di Treviso, e che poi parleremo un po' più approfonditamente, ma della Santa Bona post bellica, direi, per la parte antica faremo un accenno e partirei con questi versi che ho dedicato alla parrocchia, al periodo della Sagra, che allora era stato appena rinnovato il campanile e di conseguenza per quella festa è stata una cosa molto simpatica e l'ho fermata con questi versi. Tempo de Sagra a Santa Bona. Terra de Borghi, sparpagnai tra i campi, era un tempo Santa Bona attaccata a Treviso. In sti primi di de settembre, che porta odor de panoce, de castagne roste, vin novo e caivo, se tempo de Sagra. Nel dì che abbiamo caso in un mar de fogo, il campanil pena postà, che si alza a sproto su accesa, canta un gloria de campane che si sparpagna per l'aria quieta, accompagnando svoi decisie in boressae de libertà. Nel grison de sera, l'ave, che si aiuta il dì che more, elge un invito ai asente dei borghi a vivere co fede, il dì che vegnerà, di De Festa e De Sagra, dedicai alla patrona Santa Bona, la Vergine Toseta, messa a morte da suo padre, Siorasso e Gisian, per non aver adorato i sodei e essersi fatta cristiana. Erano tempi duri anche quelli, vero? Decisamente anche più. E Santa Bona, come accennavo, era fatta di borghi, e tra i vari borghi, adesso Antonio, che a cui cedo la parola, le sarà il Paeson de Meridiana. Il Paeson de Meridiana era la sede, la casa dove sono andato a abitare tornando da Sfollato a Postioma, da Postioma, e su una parete di questo edificio c'era questa meridiana che ha visto i nostri giochi di ragazzini da mattina a sera per qualche anno, e ho fermato questi versi con il Paeson de Meridiana. De Meridiana. Alta su muro ciaro e ruspego, batuo da sole e piova, quante tache de Baion e conte de Scondicuco, né sere dei sta del tempo putel, gassegna meridiana. Quante ore de zoghi, de ansane de corse, de baruffe, gassegna che reoio strambo piturio su quel muro, senza che ni altri tosatei se gedasse bado. Sita, sita, e assegnava drio il giro del sol e il camminar del tempo. Iera e mame a darghe vosse, chiamandone cento e cento volte nell'ora del disnar, or par fare ession qualche opera, o par andar a sera tardi a teatro Bianchini. Che reoio pitturà su quel muro, gassegnà par mi e i miei amici gran parte della nostra infanzia, che se ga consuma senza pensieri, zogo drio zogo, ora drio ora, marcata da quell'ombra che sbrissava sitta e precisa su quel cadvante. E infatti è stato così. E Santa Bona, quando io vi capitai, era una distesa di campi. La città poi si è espansa e è un po' cambiato tutto, e molte cose sono cambiate, tra cui molte realtà abitative, e ne ho fermate due che adesso leggerò. Una è Villa Miani, che è questa villa con annessi Barchese e Compagnia Bella, che è sparita, e al suo posto adesso ci sono le scuole le Bianchetti, e c'era l'ufficio postale e altri edifici al posto di questa casa. E ho fermato questo momento perché mi pareva importante. E la villa era Villa Miani. Villa Miani adesso non c'è più. Se resta solo dopini, qualche platano pien de gruppi e un albero grande e strambo che di sta finio butta tra foglie grandi graspi de fiori vioia. Villa Miani, un canton de Santa Bona spario, come tanti veci del logo, figure care che te vedevi in tel borgo dal barbier, o par l'ombra in ostaria e a domenica a messa e al vespero. Villa Miani, un po' a son e scuoe, tante belle villette adesso, e de ti quattro o cinque veci albari, e un rosignol listà. L'altro momento che ho fermato è questa vecchia Casa Bianca, che è una casa contadina antica di quelle patriarcali, bellissima, che anche quella è stata sacrificata purtroppo al progresso. E Antonio adesso leggerà Vecchia Casa Bianca. Vecchia Casa Bianca, casa contadina, col portico grande, a pergoia, a chiesa, a staia, e una madonetta pitturata in te un bel compostisso, dove sei tu? Vecchia casa contadina, saor de latte, de zoghi, de di senza pensieri, stravacata in tal broio tra fruteri, vide norbie e campi d'America e su turco, dove sei tu? Vecchia casa bianca, casa contadina, profumo de pan fresco, de fin, de vin novo e fio. C'è sosa per il cantar sveiarin de bestie in te a corte e a staia. Imbriaga l'istà de fadighe e suor. Dove si tu? Dove seo il tuo broio a corte e vide e impreste a tosente e to raise? Chi ga bastardato semensa da far buttar da to terra bona gramegna maedeta paesoni l'usma del novo o dei schei? E penso che sia questo e quello, questo e quello. Che non manca mai. Sì. E qui è una diagnosi impietosa e così è come un bisturi che taglia, diciamo, ecco. Come dicevo, questo incontro è dedicato appunto a Santa Bona e che è stato raccolto in la storia, diremo così, Santa Bona ieri è un quo praticamente dal professore Menigildo Ceccato e Guglielmo Polo, allora era parroco Don Giuseppe Verdanega, in occasione del secondo centenario della consacrazione della parrocchiale. Hanno raccolto le notizie storiche appunto su questo volume, che è interessantissimo, e tenendo presente anche l'importanza di quel territorio. È antichissimo e allora il bosco del Montello, direi tutto il bosco, arrivava fin quasi alle soglie di questa frazione, e che si trova a nord della città di Treviso. E sarebbe interessante ripercorrere un po' la storia e le vicende di questo territorio, ma siccome non è il tema della serata per la parte antica, interessantissima, anche se qualche cenno così adesso ve lo dico. I cenni ufficiali del territorio di Santa Bona si trovano in antiche pergamene di atti notarili a partire già dal 1134, territorio che doveva essere di una certa importanza se già nel 1314 la cinta muraria della città di Treviso comprendeva, tra le 13 porte maggiori che si aprivano sulle mura, anche quella di Santa Bona. Si trovava grosso modo, guardando le bozze delle piante antiche, all'altezza di Viale Luzzati a Porta Fra Gioconda, adesso diciamo sulla direttrice, diciamo, sì, direttrice che va verso attuale, le montagne, certo. Sì. E questa porta sparì con tutti gli insediamenti extraurbani, le chiese, case, conventi, palazzi, per quasi mezzo miglio oltre le mura, come previsto dal progetto di Fra Giocondo per difendere Treviso e Venezia dai collegati di Cambrai, questo c'era già nel 1508, che prevedeva con certe chiuse allagare un po' la campagna e quindi impedire alle forze attaccanti e agli invasori di muoversi. E infatti martedì, oltre Cagnan, che il professor Fassetta ha parlato proprio delle acque di Treviso, di questa faccenda, sì, no? Sì. E del mura erette, cioè progettate da Fra Giocondo, per non dar possibilità dell'entrata abbastanza agevole, cioè, a livello, ne ha lasciate tre, cioè quelle di San Tommaso, di Sante 40 e di Porta Altinia. Questa è una prima parte, andiamo avanti, facciamo una canzoncina. No, ci fermiamo e ci ascoltiamo una canzone. La seconda canzone, non è una canzone, è un po' impegnativa come canzone, però è molto bella perché il testo è di Franco Battiato, la musica è di Jacques Brel e io la dedico a Emilio e alla sua signora. Oh, grazie, molto gentile. Ed è la canzone dei vecchi amanti cantata da Franco Battiato. Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Emilio per un'altra tranche di poesia. La prossima composizione mi ha abbastanza, come dire, colpito. È una poesia del 2010 dal titolo È il libretto di Aspesa, che evoca epoche lontane, ma lasciamo dire Emilio. Ma effettivamente la Santa Bona un tempo, nell'immediato dopoguerra, forse anche prima, ma volevo fermarmi all'immediato dopoguerra, la povertà era veramente tanta e effettivamente soldi non ce n'erano, e quando si andava a bottega, a Cardenza, come si dice allora, si andava col libretto della spesa, dove il pizzicagno, nonché Casuin, o il forner, o il becker, o il macellaio, e così segnavano la spesa fatta, che veniva poi saldata praticamente verso fine mese, quando arrivava un po' di soldi, oppure quando ce n'erano. Anche questa era una solidarietà molto importante. E sì. Adesso sentivo giustamente Antonio se tornare alla moda, visti i tempi che corre, penso proprio di sì. Speriamo di no, ma l'impressione è questa. Sì, direi di sì. Tre e robe messe via in ricordo di mia mamma: lettere, foto, cartoline, e il suo libro di orazione e diverse altre robe. Un libretto piccenin col suo nome, un fiasmario, ga attirà a mia attenzione. Ho tolto su curioso, rigirando tra i man. È il libretto de a spesa del signor Breda Casoin, ricordava il timbro vioia. Dentro, appena copiativa, date e note de a spesa, scanceae da strissi in croce a segnare il pagamento. Schei in quei tempi pochi era, e s'andava zo a bottega a comprar a Cardenza proprio il stretto necessario che più spesso il botteghier el notava sul libretto. In quei anni così grami tante iere famiglie che usava sto sistema. De pagare a fine mese occorrivava qualche scheo, quel che aveva comprato. Al di de un quo, i schei non manca certo, e nessun va più a bottega, che tra altro e se sparie, a comprare il necessario, ma in te anonimi super o iper va a impinir carei e sesti, pronta cassa o bancomat. infatti adesso credo che nessuno ti faccia credito, sicuramente non questi, non nei supermercati, assolutamente, no. Esattamente. E accennavo di quei tempi piuttosto duri, e era rimasto tra gli edifici per un lungo tempo in mezzo alle famose casette, che qui di Santa Bona in Savaraia, una serie di case popolari piccoline, e si alzava questo palazzone con una fontana davanti, un bel cerchio di fontana dove i ragazzi si sedevano, no? E purtroppo, siccome il progresso va avanti, questo palazzone è andato a farsi benedire, però io ho voluto fermarlo perché era un pezzo di Santa Bona molto importante, e se l'ho intitolata El Paison de Vasche. Breve parentesi, Paison de Vasche, nel retro, oltre agli esercizi commerciali davanti, nel retro aveva queste vasche, cosa sarà? Lì c'era una sede, una specie di acquedotto dove veniva poi distribuita l'acqua alle case, no? E quindi le donne andavano a lavare, andavano a fare il comarò, i tosati ne faceva un po', tutti un po' all'ombra, di sera un po', succedeva straie, e correva voce di queste cose, queste storie, no? Di questi aneddoti, e ho fermato questo momento che mi pare così simpatico, anche se un po' triste perché non c'è più sta realtà. Al suo posto adesso che tutti i gran paesoni, tutti i compagni, sì. Con tanta gente anonima che può a Gesi sentirà, l'esara su col me condominio. Il paeson de Vasche. Tra occhi curiosi e indifferenti, toco a toco senda sosto vecchio paeson in via Ronchese a Santa Bona, diventa ormai un intrigo. Tra il fracasso e il fumeron che magnaso si alzava al cascar dei rovinassi, go risentio il cantar dei vasche, dove tutte le famiglie di avia si gavia servio de che l'acqua buona par la sé, par il magnar, par lavarse, dove e femmine gargentalissi e strasse e lava i pani a tisio e a caia. Dove serin dell'istà, al scuro desto vecchio amico, tose e tosati combinava straie, e bocche e man ferme non stava, e sighi, sospiri, sciocche da sciaffe, era querti dal cantar alto deste fontane, mai stufe de buttar acqua fresca. Toman, pi niente ricordarai a gente nova de via Ronchese sto vecchio paeson, cobalda sin osto, breda casoin, menegaldo barbier, matessi de tosi e tosati in morbin, e il cantar dell'acqua de vece vasche. Bella, molto bella. E adesso passo la parola da Gesi, ma prima devo presentare Marendin. Marendin, e un tempo si giocava moltissimo effettivamente, e da mane nonché a sera. E allora non c'erano le merendine, i varie porcherie che adesso ci sono, molto buone, saranno anche buone, ma allora una cioppa di pan poteva bastare, no? E a una certa ora del pomeriggio succedeva che, in questo caso, erano i miei figli, allora che avevano il posto mio, ho preso per il posto di giocare, venivano su, che ho giocato tantissimo anch'io là, e venivano su che vogliono il merendine. E adesso Gesi ci dirà che Marendin si trattava. Ecco qua. Mamma, go fame, dammi un tocco di pan par mie e fradei. Siga d'un fia il piceo dei tosati, scalbanà per il gran sogar, arrivando de corsa su per le scale, dopo aver dato una scampaneada da tirar su a casa. E via depressa, co tre cioppe in man, perché che altri do da basso, sai lo chiama. è un incanto guardarli scanar, intanto che ricorre Isoga ste cioppe di pan puro, coto ancora in tel forno a legna, e che croca sotto i denti come un biscotto. Parlori, no che se marendin pibon, po na sgosada de acqua de a fontanea del borgo e via sogar, saltar, sigar fin notte. Ed era proprio così, quello che adesso purtroppo non succede più perché sono spariti un po' gli spazi per giocare. Non ci sono più. Hanno inventato un sacco di diavolerie cose tecnologiche, esatto. Sono tutti ritosati, sembra che già chi diventa una cosa individuale anziché collettiva. Quindi il seiso è sempre di più e noi gioca. E perdono la loro infanzia e la loro giovinezza in quei giochi. Proseguendo, devo dire che a quei tempi, sempre Santa Bona ieri, e il Magnar nelle case era quello che gli era, ma tra tante, come si può dire, Magnari di allora, gay era anche il sanguetto de bestia, Fongadina, Baldoni, che adesso, sì, che adesso solo nominarli che fanno la vignata dal valore, il comio, il gomito. Esatto. E a quei tempi il sanguetto de Porcelli è una cosa eccezionale, una al manco per me, che adesso non te lo trovi più, neanche quello de bestia, però si può più maniarlo, vai, siamo gaine, poastri, brodo, bistecche, non so che ne vedi a mia tante. E ora, sanguetto de Porcelli. Ancora sulla porta de casa, un odor de sego e ad escaltria mestusi al naso insistente. Che profumo! Cosa gatto messo su per disnardi con qua me sposa? Indovina, fa misteriosa. No, non posso sbagliar. Un cuogo fatto co gusto, una porca spansata di un vecchio bagnar. Un disnar da poreti, quando a Fongadina fumava qua poenta, in tei piatti, e a Coradea ti invitava a far goiosesi. Sanguetto de Porcel. Roba da ciucciarsi dei e leccare il piatto e a teccia. Cosa sia, papà? Domanda uno dei tosati con aria sospetta. Sanguetto? Sanguetto de Porcel? Che schifo! Era così. Che schifo, direi anch'io così, per dire la verità. Adesso sì, effettivamente. Quando mi ricordo la Fongadina, abitudini contadine. Che adesso ripensarci, è una roba tremenda. Era polmone, e ancora dei gargato. Il gargato. Ancora dei gargati era buoni, però. Un'altra cosa di quei tempi, a differenza di adesso che le brave mammine portano i bambinelli alla scuola, più o meno fuori strada, più o meno in macchina comunque, si andava a scuola a piedi. E si andava sia alle elementari, ma anche si andava, allora si andava anche a scuola quando si è fatto le medie, o anche superiori, a Treviso a piedi. Erano 3 chilometri, per l'amore di Dio. Però effettivamente le strade non erano asfaltate a quei tempi, quindi si andava un po' praticamente con qualsiasi tempo, piova, neve, senza il lamentarsi sole. Troppo. No, anzi si andava giù in compagnia allegramente. Esatto. E se andava al tempo di scuola, adesso ce lo partecipa Antonio. Se andava al tempo di scuola, i pochi libri tenui da un elastico, a pie, passi svelti drio il vial de terra e de sassi. Se andava senza pensieri a ogni stagione, in autunno col caivo e a piova, col freddo e a brosa d'inverno, col vento infiammato de marzo, col primo caldetto de april, ne venne a nova stagione. Se andava nel profumo dei rose e mie colori dei fiori a maio, e il pensier rivolto a Madonna, e col sol caldo de giugno, spettando il risultato finale. E così, passo dopo passo, s'endava drio un rosario de giorni e de anni, verso un doman che ne spettava, co tante speranze e progetti e tanta voglia de vivar. Iera speranza, a mattina, diaspora al dopo di snar, ognun imbarca sul suo viaio drio strade, esperienze de vita diverse. I ritorni, al tramonto, i suoi racconti, ricordi, e a sorpresa di trovarsi ancora una volta, prima che fosse notte. E infatti proprio così. Così abbiamo fatto anche la seconda tornata, sì, di poesie. E adesso ci canzoniamo? Andiamo avanti. Leggi un pochino di, ancora di Santa Bona, magari un pezzettino. Sì, poi... volevo dire due cose ancora, cioè anche altre dopo, ma perché Santa Bona? Questo nome è strano, perché Santa Bona. L'elezione della patrona della località, che comprendeva allora, si va molto indietro nel tempo, i colmelli di Orsenigo, il Cornaino, e, sempre rifacendomi al libro di Ceccato, che sarebbe interessante appunto leggere, ma pare fosse dovuta, sto nome sia scaturito da una sosta delle spoglie di sta giovane martire egiziana, Bona, appunto Bona, appunto, o Cordimunda, come parleria che si chiamasse in origine, portate da Giovanni Davidor, era un conte, da un personaggio molto importante, di ritorno dalla prima crociata in Terra Santa. Quindi, scusa Emilio, sì, il paese Davidor, sì, ha preso il nome da questa cosa che stai raccontando, insomma. No, Vidor, oddio, adesso la storia di Vidor non lo so, ma comunque Giovanni da Vidor, che aveva il castello a Vidor, cioè Vidor, il castello, sì. Poi prima guerra mondiale ha fatto un macello, ha distrutto un sacco di cose, no? E aveva, ritornando appunto dalla Terra Santa, dopo la prima crociata, aveva portato un po' di perché come era abitudine allora, di reliquie. E ha portato anche queste reliquie di questa giovane egiziana martirizzata, perché, come accennavo nella poesia prima, il papà che era... Io ho messo un sfiorasso perché non sapevo come tradurlo, ma comunque era un grosso personaggio. E lei non ha voluto sottostare appunto a sposare, perché doveva una risposa a un pagano, cioè a uno di loro. E lei si era votata a Cristo, è diventata cristiana e non ha abbiurato, e papà l'ha fatta ammazzare. Come si usava, allora, non andava mica tanto per adesso, per una femmina, avuto che sia. Esatto. E appunto, quando è sbarcato a Venezia, Giovanni Davidor ha portato queste reliquie di questa santa in terraferma, è passato per Treviso e ha fatto tappa su una località fuori mura, dove c'era una chiesina, si è sparsa subito la voce di queste reliquie, e la gente è andata subito là, probabilmente sarà successo, non so se qualche miracolo, e è diventato un centro di attrazione, e Bona è diventata, diremo così, il popolo l'ha eletta patrona di quella zona, che poi è diventata, diremo così, Santa Bona, la frazione, ma non si chiamava così a quel tempo. Nel 1101? Oddio, sì, nel 1101. Sì. No, un momento. Nel 1101, non sto a farmi imbrogliare Gesi, perché no, imbrogliarmi da me solo, sì, adesso ti dico. Che la pazzia di me. Quello che è strano, non è che le reliquie di Santa Bona, della martire, siano in chiesa a Santa Bona, pur nella nuova chiesa che ha fatto nel 700. Si trova, come accennavo prima, a Vidor, nell'abbazia, perché allora c'era un'antica abbazia, l'altro lì a Vidor l'abbazia era diretta da dei frati che avevano anche il passo, perché il ponte non c'era, il passo era molto importante ed era appetibile da un sacco di gente, evidentemente, sì. E lì questo Giovanni da Vidor ha fatto erigere abbazia e la chiesa, e si trova in questa chiesina, che l'abbazia oltretutto è molto bella, sì, non so se l'avete mai vista, mai vista. Merita una visita, ne hanno parlato recentemente, proprio. Ma difatti è l'abbazia che è stata eretta nel 1101. Il nostro territorio è ricco di queste cose, infatti il lavoro che ho fatto con Vivian, che parla della Pedomentana lungo Valli Minute, ci sono tante realtà, queste chiesine, tipo, che so io, Collagù, le Torri di Credazzo, per la San Vigilio, cioè tutte queste sono chiese. Poco sono poco conosciute, queste, ma molto interessanti. Ma sono molto molto belle, perché conservano ancora freschi di quel periodo. Forte. Allora Emilio, dopo aver ascoltato una canzone, parlerai dopo il, che dopo, Santa dopo il bombardamento, buona appunto, sei Santa stato... Buona per me, perché, ecco, perché sono arrivata a Santa Buona. Va bene. Allora, la terza canzone in programma è tratta dall'ultimo album di Renato Zero, Amo, e si intitola Si può. Timone tutto a dritta, si avvicina un tifone. In un momento la tua vita non è più tua. La barca è ingovernabile, lontana è la riva. Prego per te, tu prega per me. Situazioni siamo davvero soli, ci salva quell'istinto e la carezza di Dio. Abbiamo fatto bene a incamerare esperienza, io aiuto te, tu aiuti me. Alzarci da terra ogni volta, tocca a noi, lo sai, decidere la strada, il modo di proporsi, come comportarsi, preservarsi. Casa sani e salvi. Nessuno nasce muto, sordo, cieco, stonato. Che un uomo è destinato è la più assurda idiozia. Saremo esattamente come abbiamo vissuto. Genialità oppure meschinità. Tocca a noi cambiare il giudizio della gente. Tu vedrai, ladri diventare onesti, perché in tempi come questi c'è bisogno di impegnarsi insieme, vincere si può. Tocca a noi, ne abbiamo già superate tante. Ripetiamoci, si può. Eccoci di nuovo in studio con il nostro caro Emilio e cominciamo con un'altra tornata di poesie. Sì, sì, sì, possiamo anche partire, perché qui sarebbe stata una carrellata di personaggi di Santa Buona che ho fermato. Ma la tempo è tiranno, la prossima volta noi contiamo. Ecco, io ho voluto fare una sorpresa anche agli amici, non so se me lo lasceranno. Ne ho eliminato una di quelle scelte da leggere, perché mi è venuta tra le mani questo un posting speciale che vorrei dedicare a un carissimo amico che si Antonio salutiamo Gesi, col cuore. Conoscono, che è Marcello Cocchetto. Marcello Cocchetto per molti anni. Ogni settimana, ogni 15 giorni, mi portava Sport Trevigiano. L'indirizzo era scritto al piano da Katie e Emilio. E per molti anni, adesso facciamo gli auguri a Marcello, perché effettivamente sì, è impossibilità da muoversi, e li siamo vicini. Sì. E gli dedico questi versi un po' così, mi perdonerà se non... che vanno sia a lui che a Giorgio Galati, che è quello che ha dato, che ha fondato Sport Trevigiano, che da mi pare 40 anni distribuiscono gratis. Un postin speciale. Fin a poco tempo fa, al cascar di a Quindesina, un postin, un fia speciale, me recapitava un giornale dal color sul cestin che non serve nominare. Un giornale particolare che de sport e note varie parla sempre con passione, che arriva sempre gratis, mi non so da quanti anni, a tutti quanti i trevisani. Mi ringrazio sto postin e insieme l'editore di sto storico giornale, do amici tanto cari che mi qua vuoi ricordare. Un tal Giorgio, gran sportivo, della famiglia dei Galati, e Marceo, presentatore della famiglia di Cocchetti, do figure trevisane, vanto e onore di sta città, che è giusto ringraziare. Assolutamente d'accordo. Sì. E salutare. Un altro personaggio che mi ha colpito, allora eravamo, come dire, sì, ragazzi, come si andava, cominciava le prime uscite con gli amici di Agenga, che sarebbe bello parlare anche di questo, ma non c'è tempo. La c'era questo giovane che era un po' uno sciancato e ora in dialetto si dice despossente. Despossente. E è una figura tanto cara, nonostante la sua, come dire, sventura. E vorrei lasciare Antonio leggere questi versi che l'ho dedicato molti anni fa. È il despossente, e parviso pe strupiada, ingrespada torno quattro denti da caval, negri cario e ai, squerti da un eterno spegasso de una bocca schinca, da parer picche un sorriso, un sbrego. Naso sottil, longo in arcà, pien de pori e de pelmato, un occio biso che altro incantà, spegassai da un sciato de cavei coer stopa, unti spetenà. E il camminare intorto ad ondo eon, una spaeso che altra un poco in drio, e il braccio destro de picando eon, e il sanco al peto secco in candio. Questo se gusto bosco, è il despossente. Caricatura de homo mal riuscia, tolto pal cul e simiotà da tutti, cei grandi savi e bauchi. Pochi savea che tanto spegasso, che faceva andar tutti in boresso, scondea un'anima buona e gentil, degna de rispetto e comprensione, pi de chi il corpo gavea perfetto. Gusto bosco e il despossente il lo chiamava, umie creatura e buona, bastonata dai uomini e da natura, così sia gente a se ferma soio e apparenze. È proprio così, questo è proprio preso in giro sto, invece era buonissimo, era. Io ricordo il suo sorriso, il suo ridere così con questa bocca schinca. Guarda che non è passato questa abitudine. No, purtroppo no. Decisamente. Purtroppo, no. E tra i tanti personaggi avevo fermato anche Luigino Meccanico, che tra l'altro era bravissimo a costruire biciclette. La mia prima bicicletta me l'ha fabbricata lui e mi è costata un mese di lavoro, 20 euro, 20.000 lire, no, 20 euro. Invece volevo fermare questa su Marangon, perché è una figura anche qua che è stata uccisa per, come attività dalle leggi del nostro insipido, che con le leggi sull'apprendistato ha ucciso un po' l'artigianato. Esattamente. E questo Marangon, che tra l'altro ci ha fatto la sala da pranzo straordinaria in noce, questo si è partì, noce stravecchio, che è ancora perfetto, e hanno dovuto chiudere perché non potevano permettersi, erano artigiani quelli antichi, no? Quelli di una volta. Nel Borgo Furo, persi nei campi, che sarebbe bello parlare anche di Borgo Furo. Marangon, Aneno Gainaro, e a tua bottega adesso non che sei più, tasse e braglieri del governo te ha costretto a serar, e domande oro strache adesso e tase, e tu impreste se finienti un canton a far rusine, carioi e scarpie. Che peccato. Che peccato proprio. E alla Jessy invece do l'incarico di leggere Coa de Cavalli. Questo è un altro ritratto di una ragazzina allora di Santa Bona, che adesso è mamma, mi pare, di due ragazzi, e quindi era così, come dire, bella, sì, ma una bellezza proprio acqua e sapone, non come quelle adesso che è acqua e sapone, e che cos'altro. E che cos'altro. Jessy, Coa de Cavalli. Benissimo. Non so chi te sii, del tuo nome conosco. Te goccia ma così, per i tuoi capelli di oro, ci appai a Coa de Cavalli, linda figura di Tosetta, i libri sotto il braccio e il camminare un fio asproto e provocante. Mi son fermai incantata a guardare le sciantisar dei tuoi occhi netti, il tuo musetto acqua e saon, e il tuo essere, tra poco, donna, che a camisetta furba passava a immaginar. Te ho visto scantonar contenta, senza pensieri, un fias prota, assando tedrio profumo de netto e di allegria. Coa de Cavalli, sciantiso de primavera e de anni in fior, chi sarà tu? Come te chiamarà tu? Gioventù? Bella. Sì. E qui siamo naturalmente all'ultima canzone prima della tranche finale. Benissimo, allora l'ultima canzone in programma abbiamo Autunno, tanto per stare in tema, cantata da Luciano Taioli. Quando un albero ingiallisce, quando soffia il primo vento, è il momento che mi accorgo che l'inverno sta tornando. Sul selciato della strada sento l'eco dei miei passi, nel silenzio che si perde mi rivedo accanto a te. Un aquilone vola nel cielo, sembra la gioventù. Tanti colori, tanti ricordi che non ritornano più. Mi ricordo così del sapore che c'è nei vent'anni. Non è niente per me tutto quello che ho senza te. Un aquilone vola nel cielo, col vento se ne va. Un po' di pioggia bagna la strada, sta tramontando lo so. Questa mia vita. Un aquilone vola nel cielo, sembra la gioventù. Mi ricordo così del sapore che c'è nei vent'anni. Non è niente per me tutto quello che ho senza te. Eccoci di nuovo in studio, Emilio? Sì. Allora, cosa facciamo adesso? Faremo una briscola, volevo dire, ecco, velocissimamente, io dovrei dire, siccome io abitavo a Treviso, dopo sono stato sfollato a Postiamo, dovrei dire come sono capitato a Santa Bona, ma direi di quasi soprassedere. Comunque, velocissimamente, volta, sì. Io sono arrivato a Santa Bona nell'inverno del 1946 da paese, perché da Postiamo sono andato a paese per qualche mese, poi finché ci è andato la casa siamo dopo la guerra andato, sul famoso poi a Sonda Meridiana siamo andati a abitare là. E in Santa Bona ho lavorato parecchio in vari settori, per cui anche la polisportiva, come accennava nella biografia di Antonio. Esatto. E io direi di passare subito lasciare la voce a Jesi, che l'abbiamo un po' trascurato. Oh no, no, io non mi sento. Che fa Solesa e il mio condominio, perché da dove si abitava abbiamo cambiato due o tre case, ma l'ultima è in via Everest, una zona di condomini, e ho fermato questo nuovo ambiente. Ed adesso la Jesi leggerà il mio condominio e spiegherà un po' tutta la situazione di questa nuova realtà che viene a crearsi effettivamente nel vivere di oggi. Allora, sono a me testa 5 piani, 19 appartamenti, gran terrasse, pergoli con pochi fiori, persiane sbassae, tanti parte di mattina a buon'ora. Un piccolo borgo il mio condominio, in dove il vivar di ogni dì si ripete quasi sempre ugual. E il me par più da isola che un continente il mio condominio, un porto piccinin, dove riva e parte marinai inquilini, dai nomi forestieri, sconosciui. I rumori che si sente ise, l'ascensor che va, pressa dei tacchi, e sbatter del porton, e il sottil busnar dei centrifughi a notte. In testo porto quieto, vecchio mariner sentà sui ricordi, che vivo ben. Proseguo? Con Musi Duri e Baretta Fracada, ecco. Perché è di attualità, perché sì. Adesso è cambiato un po' tutto, a proposito è legato al condominio, esatto. Perché anche in quel famoso porto non sempre ci si conosce, tranne alcune famiglie storiche, gli altri Musi Duri e Baretta Fracada. Allora, Musi Duri e Baretta Fracada. Incontrando per la strada o sul portone di casa mia qualchidun che non conosco, ho fatto caso che non si costuma più saudar dirse buongiorno con fiade sorriso. Costarai o così tanto un saiudo? Costarai o così caro un sorriso da non poterlo donar? Sì o no? Remengo. Musi Duri e Baretta Fracada. E via, co dentro la piera dei propri pensieri, tutti inciavai in te i suoi affanni da seno. Mi fa tanta tristessa sto viver, che stimo da grami. Che strambesso, me se venù un sospetto. Sto modo baiordo de far, che sia frutto dea privacy? Infatti. È un dubbio legittimo, vero? Perché parla anche di mettersi i campanelli, il numero non è non il nome. Esatto. E siamo questo proprio punto, l'ultimo. A questo punto chiudiamo, esatto. Un momento Santa Bona, lascio la spazio alla Jesi, perché ha espresso un desiderio, ogni desiderio non possiamo è un ordine. Perché perfetto. È una poesia che a me piace tanto. Bene. Non sa via del vento. Sull'ora che more il sol, sentà sui scaini di una vecchia casa, go incontra uno. Un matto o un santo, non lo so. Io ci sarai, intento ascoltar. Non cosa aiuta, ma... Shhh, fermete, è il megafatto sottovoce. Sentete qua, ascolta. Senti tu? Senti tu sta voce? Ma se qui è del vento? E il vento è il vienda distante... E conosce meraviglie de storie che il tol sue porta in giro e le conta a chi lo sa ascoltar. Mi col passa, mi piace ascoltarlo. Me son sentarente de u per un tocco, tutto intento a ascoltar. Sì, lo sentio il vento caressarmi il viso e i cavei, ma a sua voce non lo sentia. De certo, l'usma e il ciasso destidì, co pensà, mega indurio e rece. Mi stimo più vera un'altra storia. Forse non ho più il cuor de putel, fa quel matto o quel santo. E il vento non l'ha voce per me. Eccoci qua, e siamo arrivati in alla conclusione, fine, proprio alla fine, velocemente, sì. E lascia lo spazio soltanto per i saluti. No, volevo solo dire, c'erebbe un sacco di cose da dire su Santa Bona, per esempio la Festival Internazionale Organistico. Allora preparati per la prossima volta. Va bene. Benissimo, allora Emilio ti ringraziamo di cuore. Grazie sentito da parte nostra. E poi con la promessa che tornerai dopo le feste in... Quando sarai... volete, ecco, io sono qua. Benissimo. Vi ringrazio, ringrazio la regista Eddie, vi ringrazio Antonio per la sua lettura, la Jesi, e saluto un po' tutti. Buonasera a tutti e buon ascolto. Alla Spero prossima non volta. Spero di avervi fatto venire la barba. Ciao a tutti, a domenica prossima, vero Antonio? Da domenica prossima. Ecco. Addio piacendo. E come sempre, sì, sempre addio piacendo. E come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.